sono 10. Ci siamo, ci siamo. Bene, i 12 là. No, è che stavo scrivendo un messaggio, così al volo. Niente, la direzione ce l'abbiamo di questa cosa. L'intensità lo stesso, sapete come funziona la direttiva, abbiamo capito tutto. Guarda, a me proprio di questa di queste coordinate non me ne fa più nulla. Da domani mattina attacco lo stereo sul canale 14, metto musica 24 ore su 24 e vediamo un pochettino. Ci sarà un abbattimento sui 40 canali per tutti, quelli attaccati. Voglio vedere chi muoverà. Qualcuno si lamenterà, no. Dirà, tanto è, ho fatto io, oppure no, non puoi fare così, come se facciamo una volta. Domani attacco l'ingresso dello stereo, cioè dello stereo, anche il DVD più che altro. Al microfono, metto portante dalla mattina fino alla sera, chi se ne frega, tanto c'è un baracchino che non me ne frega un cazzo. Posso essere 24 su 24, senza lineare la verità. Basta quello, fa battimento tutti i 40 canali, cazzo, dalle spughe che dà. Qualcuno si lamenterà e ci va quello. Uno lo sapeva solo come un cane, non ce la faccio più. Ma che, ci siamo tutti, dai. Adesso appoggiamo il telefono e riprendere il QSO. Già lo sappiamo dove uscita questa cosa, è chiaro. Comunque, Antonio, non è un discorso intelligente quello che stai facendo tu, perché cosa c'entrano gli altri? Tu devi prendere con la persona che sta facendo quello che sta facendo, non con chi non c'entra. Devi scoprire qual è la persona, poi puoi fare su che ti piace, non è? No, non ho capito che discorso sto facendo io già. Cioè, ho detto qualcosa... Non ho capito. Spiegami, per favore. No, ho detto... Antonella ha detto che mette la portante e non parla più nessuno, ha detto non è un discorso intelligente quello, perché lui non sapeva prendere con tutti, sapeva prendere con una persona, quella che sta mettendo la portante, non con tutti quanti. No, cappa, ma lui sa cos'è, sa quello che sta facendo e sa dove sta andando questa cosa che sta facendo, capito? Se ha fatto i conti della cosa, dice se faccio così so dove sto andando, non è che ci rimettono gli altri, già tutt'altro, perché da quello che fa lui neanche io ho dei problemi, nonostante magari grandi spinte eccetera, io abbasso delle gain di due tacche e lui non mi dà più problemi, possiamo anche stare su questo canale, capito? Lui ha detto così disturba tutti. È vero, mi disturba tutti, disturba solo uno, due, tre, 5 persone, basta. Fabio. K. Come fai a dire una cosa del genere se qua è 9 più 60 è sopra il DB? Sopra il DB. Comanda sopra il DB. A me non mi arriva neanche uno che si mette sotto casa. Stamattina c'era lo stesso, perché io non ascolto, ed era 9 più 60, non sentivo niente. Addirittura sono entrato e manco Gianni mi sentiva a me. Ma ti devo mandare la foto della cosa che ho costruito? Non lo so. Ti mando la foto di questa cosa e ti metti a ridere. Come la vedi? E ti posso garantire che prendo giro. Poi ho avuto anche due riscontri da Muros. Un altro segnale che ho sentito qua. Ho capito più o meno com'è la cosa. Non è così forte come dici qua. Non è così forte. È attaccato a te allora. Perché a me, sinceramente, Roberto io lo sentivo. Antonello io lo sentivo. Non è così forte. Io, Roberto e Antonello non sentiamo niente, quindi è assurda una cosa del genere. Non è fattibile indicare tu qui, tu là e tu lì, tu là. Cioè, ci sono tante cose che si possono fare. Non è bello dire una direttiva e qui che là. Direttive a se non ce ne sono che possono andare in 27 oppure che siano direttive particolari. Non ce n'è. Ed è già da 3-4 giorni che c'è questa. Prima era iniziato con Santiago 7, poi è iniziato con Santiago 9, poi da qualche parte arrivava 9.20, a me mi arrivava 9.10. Cazzo, adesso è sopra il DB del 440, tu lo sai cosa vuol dire? Per arrivare sopra il DB del 440. E anche Roberto c'ha lo stesso segnale, penso anche Antonello. Quindi da che parte è questo qua? È sopra casa mia, sopra il tetto si mette la notte, che cazzo ne so io? vicino a te, anzi la direzione è praticamente quella, tu e Antonello, perché girando questo veicolo che ho fatto con l'RZ e con l'acquattatore l'ho tenuto tutto, l'ho girato e ho visto esattamente che la direzione, guarda, da casa mia che sei dove sono, praticamente è dritta al quadrato, e se vai dietro il quadrato ci sono proprio l'antenna tua e quella di Antonello, perciò è vicino a voi, capito? Vicino a voi. Non è finito, io Antonello riesco a sentirlo, io Roberto riesco a sentirlo, fatti due conti qua, fatti due conti, è una direttiva. Ma io non sento niente, però a me non passa né Antonello né Roberto, il discorso è molto semplice, non so, non voglio fare calcoli, non voglio fare e dire soprattutto stronzate, però non so, vabbè, non sono cose che mi interessano, né tanto, non è che mi sto ascoltando, sto guardando un film e sono entrato giusto così per capire, ma il segnale è talmente forte che io non ho mai visto un segnale così. Una volta l'ho visto, forse anche Roberto, mi pare. Ti ricordi, Roberto, quel segnale che non riuscivo a passare neanche io a casa tua? Dove, Roberto? Ho capito che era telefono, forse hai ricevuto una bassa. Se è davvero così forte da te, è al muro, arriva a 9,20, lì che 9,20 è basso, non può arrivare un segnale così forte come dici tu, che è veramente caricato, non solo 9,20 a Muros, non è possibile, perché se ci arrivo io a Muros, lui è un apparecchio sensibile e c'ha un'antenna che riceve bene, perché io sono dopo un attimino. Fatti un po' di conti, è proprio localizzata, proprio vicino a voi, proprio ce l'avete, proprio vicino, e non è finito, se non arriva così forte a Muros, non può essere un omnidirezionale, e neanche una 5 ottavi, se non fosse una 5 ottavi non arriverebbe così forte, e allora è una direttiva, cioè è un 2 più 2, Nicola, non è che voglio dire se non state, ma è un 2 più 2, ho fatto 2 più 2 e è venuto fuori questo, in un attimo, ho girato questa cosa, ho abbassato due manichette sul mio accordatore, ho messo tutto a zero, ho girato con la mano questo tubo che c'è in mano, dentro casa, la direzione è quella, non so di che altro. No, io non posso fare manco quella prova perché le direttive le ho tolte, non ce ne ho più direttive, è rimasta solo quella di 50 mega e in settimana devono venire a darmi una mano, devo togliere anche quella. Vediamo Muros, c'è molta differenza dal mio segnale a quello che c'era poco fa o Claudio. Ma scuso mia. Certo, sono Tiago Drere, ben. Devi segnare quando stava parlando a Tony, mi sa che siamo nel sud, temi. Credo fosse l'antenna. Faccio un'altra volta. Qui, che glielo ho anche detto al padre ieri, l'altra si è apparato così come sei. E poi, con l'altro apparato, perché c'era il 48 con la L, no? E ti fa due stazioni, o usi una o usi l'altra. Invece io ti stavo usando di nuovo con l'apparato lì, abbassato per entrare nel lineare, fuso tutto un'altra volta. Là, cazzo, ma c'è una scena, ogni volta che entri tu, cazzo, fonde lui, cazzo, aiuta, sto a entrare. Infatti ve lo ascolto, Gianni Capri 2, stai arrivando a Santiago 4, modulati 5, cosa ti è successo? Cazzo. Basta di vatto. Sei emozionato perché c'è chi sta Claudio. Cazzo Gianni, secondo me tu non hai abbassato il watt, hai preso il baracchino e l'hai messo sotto la scrivania, cazzo non avevi più giù, no vabbè Fabio, volevo sapere che differenza c'era dal mio segnale, perché io vado sempre così con, siamo a 20 watt col 440, modulati siamo 30-40, e io ho un segnale a Muros che penso che sia quello più alto di tutti rispetto a voi, a parità di potenza credo. Volevo capire che differenza c'era. La verità, non ti offendere, secondo me sei attaccato. Quanto me, che non vedo la luce di domani, guarda, sono con 20 watt, 20, guarda, ti riporto, sono col 440, io non posso attaccare niente col 440, io non ne ho lineare sul 440, ho un lineareto del cazzo per fare andare un po' di più, con qualche watt in più, quel... come si chiama, il baracchino, quello base Polmar, quello lì e basta. Guarda, così io sono con 5 watt, ti faccio la foto e te la mando. 5 watt modulati 10, penso che si veda la segnale, no? Però Antonè, secondo me tu hai guadagnato su di me e io ho guadagnato su di te, perché ho spostato l'antenna sull'altro lato e quindi ce l'hai proprio davanti adesso, prima ce l'avevi in fondo, capito? No, lei non è attaccato, te lo posso garantire. 40 che picchia a 45. No, poi io non ne ho lineare da attaccare al capo, non stai scherzando, assolutamente. Il giorno che ho provato il lineare, io l'ho attaccato al coso, al cobra, e basta. Il cobra tra l'altro non ce l'ho neanche perché l'ho messo dentro l'armadio, no, tutto tutto me, che cazzo, non ha funzionato da mai stare con il lineare, te l'ho già detto. Era giusto una prova, giusto così per scassiare, boh, però non penso di doverne usare il lineare io. Vabbè, Roberto non c'è più. Ok, ma l'ho chiamato. Comunque, se volete il confronto, 40 gli ospiti 45, invece la portante era praticamente una virgola sotto il 60, giusto una virgola. Nonostante tutto, io sentivo Roberto e sentivo anche Antonello. Mi viene bene che, non so cosa dirti, non so cosa... Mi sembra che Gianni l'abbia verificata anche oggi. Anche oggi c'era qua la portante Gianni, mi pare, no? Ti ho sentito a voce nel cos'era primo pomeriggio. Era bassa, questa sera, era più bassa. Ma cosa bassa, buonasera a tutti. Grazie, mi arrivi a 9.40 a me. Ciao, Tony, salutoni. C'era il dietro. E mi c'era Tonino, che ora era quando c'era quello della portante? Sono andato a dirti quella cosa, che poi siamo sentiti al telefono, che ora era? Ma io penso, che erano le 4 qualcosa. Infatti, che quando siamo sentiti al telefono io ero nel divano guardando la televisione, poi sono venuto qua in sala radio per vedere un attimino com'era la situazione. Era in ascolto, era la portante a diguglio, infatti Gianni aveva fatto quel rettivo, se n'è andato, non so, vabbè. Comunque, vabbè, proprio non so cosa dirti, sono cose che non mi interessano, per carità, io in questi giorni non ci sto entrando e non me ne affutti nulla, ho altro a cui pensare, però penso che ci sia qualcuno veramente che voglia dare fastidio questa volta, perché un segnale così io non l'ho mai visto, perlomeno da quando siamo rientrati in radio, non l'ho mai visto così alto. Sì, non è un problema, no, claro, tanto poi alla fine si trova il segnale lì, perché questa modulazione che sentirà me la posso avere uguale, posso arrivare a casa sua per dire, o da Antonello, anche in barra mobile con altri apparati eccetera, e si trova subito. Io da casa la direzione la trovo, se poi voi mi dite quello è una conferma, se poi da muro 920 è una conferma, se poi il casino aveva chiuso me ma sentiva fischiare un'altra conferma, cioè non ci vuole molto, 2 più 2 non è che poi alla fine sia una cosa interessante, credimi che domani faccio colazione lo stesso e stanotte dormo, però se vogliamo entrare in campo tecnico, se è vero che ci tirano queste cose, che ci piacciono queste cose, siamo appassionati, magari così, giusto un commento, un calcolo si può fare. Non so come calcoli e come commenti le cose tu, ma io ti ripeto, me ne tiro fuori perché non sono in grado di incolpare nessuno, capito? Quindi me ne tiro fuori e non me ne affutti nulla, come vedi, anzi, sto anche chiudendo, cioè abbasso il volume e continuo a guardare la televisione perché è proprio un discorso che non mi tocca, non me ne affutti nulla, Fabio, capito? Tanto è già da un po' che sta succedendo nuovamente questo casino, o sovramudolano, mettono la portante, o ruttano come l'altro giorno, che c'era anche Tonino, quindi alla fin fine sembra che non sia cambiato niente, dai, vabbè, comunque, io me ne porto a 20 watt, però Antonio, cazzo, mi hai fatto abbassare il 4,40, ecco qua, 10, 15, 20 watt. Io non lo tengo mai nella soglia dei 10 perché altrimenti non vedo movimento di smitter, è troppo basso. Vabbè, divertitevi, esaltate lì. Ci sentiamo, rimango in quel Rix, mi continuo a guardare questo film, che c'è un film 84 che mi piace, quei film vecchi di Thomas Milian. Ciao a tutti. Comunque Fabio, l'hai fatto spaventare perché visto, come hai detto, la zona ha smesso di mettere la portante, quindi può darsi che i tuoi calcoli siano giusti, non lo so. Se sei così bravo da calcolare, continua a calcolare, e se lo provate rompete il culo, altro non ti posso dire, ciao. Ciao, che è tratto, signori? Non voglio rompere niente, nulla, solo che piccole soddisfazioni. Queste cazzatine ce le ho, roba vecchia, qualcosa acquisito ultimamente, l'ho fatto per un altro motivo, tant'è che quell'antenna, se ti mando la foto ti metti a ridere, quello che ho fatto, però è una cosa efficientissima, soprattutto sui 19 MHz che mi interessano per ascoltare altre cose, podcast eccetera, e poi l'accordatore è anche quello per ascoltare sui 6, 8, 10, insomma per il podcast, perché ho sempre avuto la passione per l'ascolto. In più c'è una radiolina a 10 euro che tira la paura, 10 euro, ecco, 10 euro, anche quella per l'ascolto è meravigliosa. So che quando ho visto questa cosa, quando ho visto, tra virgolette, un po' di panico, cioè... Hai finito il telefono, beh, ti ha telefonato l'uomo della notte. Ma anche di più forti. Che l'uomo della notte? Ah, al combattere. Io voglio vivere. Ma dove sta la radio? Cos'è? In un attimo ho attenuato, girato questa cosa a mano, ho visto dentro casa questa antenna, l'ho girata a mano e ho visto quella direzione e due conti ed è fatta. Comunque il baracchino ha fatto anche parlare di questo forse, ma soprattutto per parlare di altro. Io ti saluto e non dimentichiamoci anche gli altri, ci sono Gianni, Riccardino, non mi piace neanche monopolizzare. Sì, fatte, dimmi Tony, dimmi tu. Ma per domani mattina ok? Ma penso di sì, ho mandato un messaggio e non mi ha risposto, penso di sì, ti avviso io comunque Tony, perché prima ero bello che okay, suo, non è che, capito? Ok, d'accordo. Riferimento comunque c'è, beh, se presenta la portante, io con l'RFI, no, si è a Porto, a Santiago quasi sì. La portante stasera mi arrivava a 9,5, che è una cosa molto molto potente, non so quanti watt c'ha, ma io presumo almeno un chilo ce l'avrà. Ma no, i lineari così grossi, io l'unica cosa che posso fare con il K è tirare su la potenza del K, ma non ha più di 80-90 watt. E poi c'ho un lineare per il Polmar, che lo cambio, insomma, un lineare a un centinaio di watt. Quello grande dentro l'armadio, ma non ce n'è lineari così grossi, a prescindere vabbè, da me che lo usa una HF, ma penso non ce ne siano lineari così grossi. Roberto, e quanto ti arrivava? A me mi ha saturato il K, non l'ho mai sentito saturare. Oh, hai capito, quindi Tony, avete capito, la stessa cosa fra me, mi va sul DB, noi abbiamo col K al 60, e la lancetta l'ho vista sopra il DB. Se ti ricordi Roberto, una volta, non so se stava scherzando, non mi ricordo, ti ricordi che non passavo neanche io da te, che c'era una portante che tu hai detto, che cos'è questa portante? È la stessa portante. No, è molto più Gianni, Claudio, questa portante, il K è diventato muto, è andato in saturazione, non ne ho mai ricevuto segnali così forti, cioè la saturare il K, zitto, cioè non sentivi niente, nessun rumore, quando tu c'hai il volume abbassato a zero, a passare a Antonello Pompugno, Antonello è molto vicino qua, io non sentivo a nessuno, diventava muto il 440. La stessa cosa ti sto dicendo io sono entrato proprio per quello, per dirti che qua, anzi ti ho mandato un messaggio che qua 9,60 lo passava sopra il DB, oltre 9,60. E una volta solo, ti ripeto, ribadisco che ho visto quel segnale, non so se stavano giocando, non so se l'hanno fatto apposta, non so che cosa, tempo fa, dove io non passavo neanche da te, e io non passare da te è molto molto difficile, perché ho la possibilità di poter arrivare ancora più forte di come ti arrivo. Quindi, non lo so, vabbè, Fabio ha detto che ha fatto i conti, penso che i conti siano giusti, io non so cosa dire, non posso accusare nessuno, la portante comunque è sicuramente una bella portante di zona, non lo so, vabbè. Vi saluto, divertitevi e ci sentiamo. Sì, ho sentito chi è che ti ha chiamato, vabbè, non ti preoccupare, ho sentito in sovrambolazione. E le voci le so ancora conoscere al telefono. E vabbè, divertitevi, dai. Io sono in ascolto, mi sto guardando un film di Thomas Miglia, poi già ci vediamo ovviamente domani mattina, te lo dico io chi era quella persona, roba. Ma la portata? Sì, te lo dico io domani mattina, però te lo dico di persona, guardandoti in faccia te lo dico. E vabbè, sto di tutti i giorni. Poverino Riccardino. Cosa c'è Fabio? Sto schiacciato, senza parlare, muto, ma il gatto ti ha mangiato la lingua. Stavo ascoltando tutte le cose che succedono in 27, le tragedie, delle le sitcom. Che bellino, le sitcom della 27. Mitico di Cardio, mascotte, mascotte forever. Cosa volevo dirti? A te quando ti solleticava lo Smither, la portantona? Su 30. Cap. Guarda caso, proprio in linea tra casa mia e casa tua, è proprio giusto, perfetto, ci siamo, soliti conti. Anche qua era 9.30. In che zona sei tu, tanto per capire in che linea è andata? Io sono a Via Valdeta, dietro Via Valdeta sono, una parallela. Ma tu lo sai che se prendi una linea e fai l'antenna di Pomponio, la mia antenna, l'antenna di Riccardino e la tua antenna più o meno lì a metà, perché voi casualmente incrociano il quadrato, che strano. Io scommetti invece se io dovessi fare su 11 alfa attacco un alternatore all'ingresso del microfono e cosa del genere e faccio l'alternata, scommetti che non passa nessuno in nessun canale e non ascolta nessuno, andi buoni. Ehi Antonio, no, non è una gara di faccio il tronzo, no? Qui dovrebbe essere una gara sulla cortesia, sugli argomenti, capito? Poi sento giustamente Roberto che dice, beh io adesso chiudo tutto, cioè per la serie, andate al diavolo, non è il clima che mi piace. C'ha anche ragione, anche perché c'è qualcuno che ha detto, a stare vicino alla merda, anche se non la tocchi, ci pigli la puzza, ha ragioni. Lo so, ma non è per me, non lo sto dicendo, per gli altri, per chi altro. Se io aggancio un trasformatore agganciato al microfono, che è l'alternata, non sai come, non si parla più in 40 canali, te lo dico io. Ma nel raggio non ti dico di mezzo chilometro, no, di 15, 20 chilometri, cosa del genere, sentiva quel brontolio, tipo quello che si faceva una volta quando c'era il Policlinico Sassarese, tale uguale, capito? In tutti i canali. Per dire mettere l'audio ingresso dell'audio e tramite il microfono e mandarlo in baracchino a 5 watt e sai come diventa per carità con FM500S non ce n'è per nessuno roba di cose abbattimento al vento tutti i canali, ma per tutti mica, non parla più nessuno. Ti sentirebbe la musica con tutti quanti, per un mese come minimo. L'ho già fatto, quindi per quello che lo sto dicendo. È funzionato mio, sai come è funzionato? Antone, qua siamo per migliorare la frequenza, non per peggiorarla. Avanti, Tonino. Ma ripeto, a me non penso che mi disurra, perché io abbasso le figli e lo porto a Santiago 1 2, Antonetto. Anche se può morire ieri su quel cambio canale, a me proprio non mi dà il suffo. E con te già mi posso parlare tranquillamente, con quelli forti giustamente. Comunque, fuori, sei da cazzo, Antonetto, disturbi, sono tutti. Spiega, ma la chiro per colitti con te la testa. Sì, non mi sembra bene, facciamo anche la cena. A sua gira. Facciamo. Ah no. Oh, Tony. Eia. Mica ce ne vuoi buttare giù l'antenna, sto cercando uno a scendere a me alla 5 di 20. A me mi ha avuto la bambina, con lì nel disco lo dovevo in faccia, ma carità. Tonino, via, così mi parlo, che mi serve qualcuno. Aspetta che domani sto facendo la risonanza e se tutto va bene me, se mi dà la potenza col professore con la direzione a Cagliari e mi passa a vedere il tuo gatto là, prego per non dire corretto la stacca per già scendere sull'antenna. Se non vi siamo contenti tutti l'altezza a temono. Adesso sto aspettando un amico, sto facendo dei lavori, sto buttando giù tutto il traliccio, tutto il sistema. Siamo per la giurita, non ti trattene a secchi, ma giù ho comprato la moletta, mi dà MD, LD, forse mentre ha fatto uno, prendo la moletta, viene a cadere da sola. Io non ho paura di accettare il tempo, proprio che non l'ho mai avuto. Ho lavorato nella torre di Fiume Santo, che era 218 metri, tutto. Io quando ero lì di che era sacene sempre quello, ho cambiato la come si chiama? Il piattello della fiaccola, non c'entra niente, ecco, c'è stato i cermelli che si muovia, ero col portatile, ce la fai a stare fermo, ce la fai, ma c'è il vento, la farà mini se c'è il vento, e tu mi stai a 70 metri, era bui, pari un pizzone, andando il torrente, che tu c'è stato, babbo dai, riprendi il coso, Riccardino, riprendi, io sto guardando questo film, mi sto ascoltando comunque. Ok, va bene, grazie Claudio per il mic, saluto a tutta la ruota e faccio quel ritiro, porto tutte le apparecchiature dentro. Come ho detto, ciao a tutti, a te. C'è la portante, c'è. Riccardino, ciao, buona notte, dai, ci sentiamo. Cosa c'è, Tony? Ascolta Riccardino, ma potrei prendere una carriola così per il trasloco, fai prima. Ragazzi, è una portante, non vi sento. È bassa qua, qua. Sotto, ti sento, Tony, sotto. Adesso è più bassa, però. E si sta muovendo questa portante? No, non va più 30, È in macchina, perché si sta muovendo, è bassa qua. 9 più 30 la portante adesso si è abbassata, vabbè. È in macchina, Santiago 7, 8, 9, poi scende 8. Ecco, 9 più 30, allora è ancora in zona, allora ragione io per il mattino. Quanti, quando lo mette l'altro? No, ma per qua è bassa, si vede che si muove in macchina. O nella tua e Claudio. E allora in macchina, ragione io per quello che era 9,60, Robè. Ma come fa a arrivare 9,30 qua? Quanti watt c'ha in macchina? Non siamo con 1200 watt in macchina. Cosa vuoi ti dica? Se 9 più 30? Gianni, basta che ha anche 100-200 watt in macchina, va vicino a casa di Carlo e Claudio e le arriva a fondo scala. Punto. Qua era con USB, qua. 7, 8, 9, poi parlava tutto da 9. Quanto ti arriva Antonio? Ho capito, ma se va sotto un caduto io mi arrivo basso a me, e invece arrivano sempre con uno scala. Ma ti sento sotto te Gianni, se tu mi senti, è 9 più 30 qua. E invece vuoi attaccare qua. Allora, ma ti sento sotto, non la passi. Se si mette al quadrato, arriva 9 più 60 qua dal quadrato, hai capito o no? 8-9, sta muovendo. Ecco, arrangetevi, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. No, poi io non la sento più. No, poi basta, io addirittura se passo le fighe lo porto a zero, pesa un po'. Non c'è nessuno qua a carburante, Antonello. Riccardino, ciao Riccardo, se mi ascolti. Ha preso la carriola. Tutto bene? quindi non mi agire per caricare tutte le radio, tutti i microfoni, portarli dentro, cazzo di altra voglia. E tanto Gitto ci abbia la carriera, ma sia prima. Ma se mette due ruote sotto il tavolo, fa ancora prima. Ma Muros non c'è più. Muros. Ma fuso, mi sa. L'ultimo passaggio mi ha fatto Santiago 5. Ma una volta, visto, ti ricordi che siamo divertiti? La talotta, che l'ho preso per il culo. Prima è arrivato alle 7, poi dovevo portare, quack! 9:20, cosa del genere, boh, e sei sparito di nuovo. Quella è colpa tua mia, ogni volta che hai dentro tu, quack! Fondi lui, guarda. Mi ce la vuoi finire, mi ce la vuoi finire, cazzo, porca puttana, boh. Però sei passato questa volta, Antonè, sentivo sotto il fischio. Che fischio? Il fischio della portante sotto. Perché io fischio della portante sotto c'ho io. Cos'hanno lì? Nel 2007, ne lo sai, no? No, Cantone, non hai capito, c'era la portante, però sei passato. Ah, pensavo, scusami, pensavo che ero io, no, che stavo dicendo a me. Qua passa tranquillo, Antonello, ma così sente il fischio qua. Sì, deve essere qua in zona ancora. Pensavo che ero io, no, no, scusami, pensavo che c'avevi con me, però, vabbè, tutto a posto, là, non c'è problema, là. Io mi sono divertito l'altra notte quando è entrato se muovevamo a cosa o quasi. Veramente mi sono divertito la verità. Mai così in vita mia con Muros, guarda, allucinante con tanti due. Ma con tu la torretta. L'unica volta mi sono divertito la verità, perché almeno. Mi è passato 4-5 ore così, tranquille. Oh, sono entrato. Eccolo. Ehi. Sì, Rombe, stiamo dicendo sempre la stessa cosa, ma tu non mi vuoi capire a me, vabbè. Te lo spiego domani mattina, comunque. Billy a Antonio e a Fabio, quando andavamo al centro ecologico, davanti al cancello del centro ecologico, che si accendevano i lampioni ausili. Ma state scherzando. Come non avete idea di cos'era la zona, questa zona, anche salendo un po' più su, soprattutto al centro ecologico. Cazzo, non arrivi 9:20 in macchina, arrivi 9:30, arrivi a Muros, Fabio, ma stai scherzando? Oh, non lo so, avrò calcolato male, non lo so, potrei anche dire che mi sono fatto l'idea, ma non è vero, no, non mi sono fatto idea su persone, luoghi, città, eccetera. Vabbè, di questo girato l'antenna, un certo arte, ho capito che veniva dalla parte vostra e niente, poi finito gli altri, ho capito un po' secondo me com'era la cosa, finita. Però se vuole mettere importante si accomodi, a me non mi ha fatto nulla, io se devo parlare con Antonello, oppure con te, perché a giro di telefonata arrivo anche a te, se vedrai, cioè devo dire una cosa, già non mi sei cardito a usare il telefono, piuttosto che il microfono, capito? No, non vanno da nessuna parte, non è più come un tempo che non c'è altro modo di comunicare. Se stai qui in radio ti deve piacere, ti devi divertire di fare radio, se no comunque se devo dire una cosa importante ci si arriva alla persona alla quale hai bisogno di parlare qua, non è più come prima. Sì, vabbè, ormai le comunicazioni ci sono, quindi non c'è nessun problema, però io ti ripeto che quello era in macchina, fottidini, era in macchina al quadrato al centro ecologico, perché a me così non mi arriva nessuno. Solo in macchina così a 100 metri puoi arrivare con quel segnale nel modo più assoluto, assolutamente. Adesso l'ha rimessa quando stava parlando Antonello, però Antonello passava, quindi si sta allontanando, se ne sta andando, magari non è neanche di Sassari. Un cazzo me ne vado io, ma che macchia vero? Il centro ecologico su alla punta di Scala di Ciocca è sempre con l'attaccato. Lo faceva un certo Piero, lo zio di Delta 1, di Franco Delta 1, non so come cazzo si chiama, Piero, non era Piero Drago, un altro Piero era, Piero Blu, ci metteva, perché rompeva molto le palle, era sempre con le linee attaccate, faceva un casino. E lui allora veniva in macchina, si metteva dove c'era la discoteca, su, no? Lì per sera in trasmissione, ma a ricezione non senti più nessuno, infatti non sentivo più nessuno. E quindi dovevo per forza buttare la spugna, capito? Quindi vabbè, riprendi Roberto. No, sto per andare tanto che è tardi. Ditemi un po', chi è rimasto qua? C'era chi? Ciao Tonino, poi chi c'era? C'era Mulos, poi c'era Riccardino, Fabio, Antonello, Claudio, chi c'era poi? Gianni Doppio Rumo, ricordatemi un po'. Capo, ancora detto Gianni Riccardino che ha fatto quelli. Vabbè, Claudio, Antonello, Tonino, Gianni, io e tu, anch'io prossimo a quelli tra l'altro. Cacchio, ma è le 11.25, non pensavo fosse così tardi. Ok, dai signori, vi saluto e ne parliamo in altri momenti, dai. Sinceramente queste cose mi fanno anche passare la voglia a me. E poco fa infatti volevo spegnere subito, detto, basta, no, non mi piace a me queste cose così. Perché la prima volta, ti ripeto, che mi succede una cosa del genere di non sentire le persone, perché portanti ne ho sentito tante, tantissime, tutti i giorni, però portantine, portanti che mi oscurino tutta la gente, non mi è mai successo. La prima volta in tanti anni di CB non ho mai visto l'apparecchio andare in saturazione, cioè muto, non sentivo più a nessuno. Ma non sei solo, l'ho fatto anche poco fa, ma tu eri assente, quindi. Va bene, dai, prendiamola con filosofia e diciamo sempre la radio deve essere un divertimento, non ci devono essere dei problemi, mi nauseano certe cose, dai. Ok, dai, ci sentiamo in altre situazioni, io faccio corretti, avrei preferito parlare di altro stasera, come stavamo parlando prima, Fabio, di argomenti tecnici più interessanti di queste cagate che stiamo dicendo adesso. Ok, ciao a tutti, ciao Fabio, ciao Antonello, ciao Claudio, Gianni Doppio Room, Tonino Kawasaki e eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio corretti per mancanza di voglia e per pure tardi. Ciao ciao di nuovo. Ciao Roberto. Ciao Roberto, buon pomeriggio, a domani. Ciao, ciao Roberto, già passo domani mattina, poi ti spiego due cosette, vedrai che mi dai ragione. Capa Roberto, capo 144, buon tutto, a tutti i dini sono cose che capitano, ma abbiamo le ossa dure, non è la prima volta che schiacciamo il tastino del mic, capito? Abbiamo visto anche il peggio, abbiamo visto i carabinieri, abbiamo visto gente pestata, abbiamo visto sgarri, antenne tagliate, qualcuno ha fatto che antenna l'altro con la corda, ma sono casi un po' così, adesso siamo più grandi e queste cose le affrontiamo anche in maniera diversa. Buonanotte, annuncio anche il mio QRT, vi saluto, vi do buon proseguo, buon tutto, statevi bene e ci risentiamo sulle solite frequenze, importante o non importante, tanto riusciamo a parlare lo stesso, mi si pone la faccia, buon QRT. Ciao Fabio, buonanotte. Ciao Fabio, buonanotte, era lì, ci vediamo domani, eh? Ciao Fabio, buonanotte. Ciao Fabio, ciao, buonanotte, le frusce. Dunque, sono di stasera, pomeriggio era un bel forte, un bel. Poi invece che c'era poco fa, là, era in macchina perché si vede il segnale, se deve sapere. Era più forte quella del pomeriggio o quella di stanotte? Quella del pomeriggio era più forte. Si è detto che io ho passato le referie, ha detto che porto 7 a 5, quella lì era 9.10, era referie in chiuso. Quello del pomeriggio era intorno al 9.40, 9.35, una cosa del genere. Più o meno era un segnale alto lo stesso, questo era 9 più 60, quindi non so cosa dire. Non è che posso incolpare nessuno perché non sono all'altezza di farlo. Se qualcuno ha l'altezza di farlo ve lo faccia. E si assume le sue responsabilità. Avanti Gianni. E io infatti. No, ma non è possibile che era in macchina Claudio, perché qua arrivava a 9.30, con la te arrivava a 9.40. Non è possibile che avesse segnali così forti da me a te. Ma Gianni, quella di stasera, cosa fa? No. Santiago 7, 8, 9, 8, 7 e si muoveva parecchio, era molto bassa, si abbassava le fighe portava a zero, peso a posto. No, quella più forte sto dicendo, mi arrivava a 9.30 con lo scatto. Ma quella del pomeriggio sta dicendo? No, quella di stasera, di stanotte. No, quella lì arrivava pio pio, fa 300, era oscillante Santiago, massimo Santiago 9. Qua era 9.30. Cioè Tonino non è che c'ha la boomer, cioè c'ha un'antenna, scusa, come mai c'è tutta questa differenza? Cioè la zona nostra quanto ti arriva? Il segnale più alto della zona mia, tra me e Roberto Antonello, come siamo messi orientativamente, non voglio fare cioè sono pesce segnali più medi. Allora Claudio, insomma arrivi Santiago 9.30, Antonello all'incirca siamo tra il 3.0, gli arriva più forte leggermente è Gianni, doppio lui. Gli altri manco le calcolo, dai, perché Roberto non è che arriva così forte. Ma Gianni, lascia perdere Gianni ce l'hai più vicino. È chiaro che c'è il segnale un pochino più alto, ma sto dicendo, nella zona mia, quello che il segnale più alto che ricevi, qual è? Il tuo è quello di Antonello. Ecco, il mio è quello di Antonello. Se questo a me mi stava arrivando a 9 più 40 e a te ti stava arrivando a Santiago 9, è chiaro che è qualcuno che è in questa zona, qualcuno che magari non sappiamo neanche che c'ha il baracchino o cosa cazzo c'ha, non lo so, ma è palese che è qua, che è in questa zona, è più vicino a me, per dire, in questa zona, dico, sai, è più vicino a me che a te, perché per altezza che io vi vedo tutti, quindi per me non è fattibile dire quello e quello e quello, perché c'è una recessione rispetto a voi, molto molto più alta. Sì, ma è quello di stasera, ripeto, per me non è che sono un giorno in frequenza, le cose le vedo abbastanza bene, le notate, ed era molto confuso, e mi saliva, scendeva, quindi era in macchina, e non è detto che sia importante, era molto molto vicino a voi, in macchina, e questo è più che scontato. Poi invece stasera, pomeriggio, era un bel forte, il segnale fisso. E quindi sei d'accordo con me, te lo sto dicendo, siamo d'accordo tutti e due, allora è Gianni che non è d'accordo con noi. Capito? Perché giustamente lui fa i calcoli, anch'io sono d'accordo con te, per me era in macchina, perché le posizioni da questa altezza, se tu ti metti al centro ecologico, a me mi arrivi fondo scala pieno, non c'è Cristo, non passa nessuno, ok? Basta che hai un B300 in macchina, per dire, qualcosa che ti aiuta, 150-200 watt, è chiaro che arrivi fortissimo. Se poi ti metti in via Milano Alto, dove c'è la rotatoria, è la stessa cosa, sei sempre in mezzo tra me, Antonello e Roberto, quindi è fattibile, può essere fattibile che uno è in macchina, capito? Ma ne stiamo parlando troppo comunque, altrimenti come dice Gianni si elogia troppo la cosa, è lui che si avvicini ancora di più, poi prima o poi vediamo, che continui ad avvicinarsi, se sono io il problema, che si avvicini, che si metta sotto casa però, e mi avvisi che è sotto casa, perché intanto me ne accorgo che è sotto, non sta col PL, e me ne accorgo, poi vedrai che lui non ne accende più il baracchino, avanti già. Ehi, ma è quello che non mi spiego io, che qua arrivava a 9.30, quando copriva a voi, a me, a Roberto lo copriva, a te ti copriva, e copriva a tutti quanti, non c'era uno che passava. E a me mi arrivava a 9.30, quella più forte, poi c'era stata una più debole che arrivava a Santiago 7, quella lì va bene, ma quella più forte mi arrivava a 9.30 a me. Anche a me copriva già. Sì, mi sa di sì. Sì, Tony, quello del pomeriggio io vi stavo ascoltando, ho sentito Gianni che non sentiva più niente. Quindi, ti ripeto, può essere, in macchina che cambia zona, un po' viene nella zona alta, un po' va nella zona bassa, oppure anche se si mette per dire nella zona lì intermedia, su a Filigheto, nella zona alta del monte, via Grazia del D'Alto, è fattibile che a Gianni gli arriva a fondo scala 9 più 30 e a me mi arriva magari 9 più 20, capito, perché è già successo, che Gianni non sentiva, io sentivo. E già da qualche settimana sta funzionando questo gioco di Caruso, non è che da stanotte, ci sono segnali a 9.60, 9.40, 9 più 30, 9 più 20, alla fine come cazzo fai a incolpare qualcuno? A chi, cosa dici? È Claudio dalla zona alta, è Antonello dalla zona alta, è Roberto dalla zona alta, e quelli della zona bassa chi sono? Gianni doppio rum, poi chi c'è? E cioè, come fai a dirlo? E vabbè, se lui poi questo qua ti sgamma, fa come la zanzara, fa la lampadina e poi si brucia le ali. Basta fare qualche mostro falsa, poi all'incirca, perché non costa nulla, che se non sono te in macchina io potrei mettere il baracchino senza te in macchina. E se io girando, trovando la portante, che mi arriva un bel segnale, vuol dire che sono già molto vicino a lui. Sì, ma Tony, per l'esperienza che abbiamo, ti ripeto, io non sono in grado di dire Tizio Caio Sempronio, chi è in grado di dirlo lo dica e si assume le sue responsabilità. Sei così bravo da capire che Tizio Caio Sempronio che lo dica. A me non me ne frega niente. Non è, non è, posso dire, perché il segnale è altissimo, copriva tutti, come avete sentito Roberto le ha zittito la radio, la stessa cosa ha fatto a me, perché non passava nessuno, non avevo manco QRM, quindi assolutamente, perciò non si può dire è uno o l'altro, ripeto, ribadisco, se qualcuno è così convinto da poter fare una cosa del genere, che la faccia e si assuma le sue responsabilità, pazienza. Poi a me poco da, non mi interessa, insomma, ecco. Chi c'è rimasto a parte voi qua? Il film è finito, non ho manco visto la fine, cazzo. Io ora. Prova Claudio. Adesso 9:20, il tuo segnale. Cosa è successo poco fa? Si sciolgono. Ecco, quindi non c'avevi connessione col PL, ho capito, No, no, poco fa ti ho fatto una domanda, ti ho detto che differenza c'era dal segnale della portante al mio segnale, giusto per capire in che posizione poteva essere. Al basso. Stavo facendo la pipì. Cambiare la cogliolina. Campagato. chi è rimasto. Aspetta un attimo. Beh, siete andati via tutti, dai, io vi saluto, spengo tutto, ok? Ci sentiamo alle prossime quando coincidono gli orari e le cose, dai. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Claudio, ciao anche da Ruggilito, che senti tutti e due. Buonanotte a tutti e due. Ciao a tutti, buonanotte.